radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Prima puntata di RAM, Radio Antenna Migrante, e siamo in diretta a pochi passi dalla stazione Garibaldi siamo più precisamente al centro Rocchi. È una giornata speciale per noi, per la nostra radio, perché con la puntata di oggi iniziamo le trasmissioni, diamo avvio a questo bellissimo progetto che ci accompagnerà per molto tempo e per molte puntate, ed è una giornata speciale anche qui al centro Rochia. Il centro Rochia, più che un centro, è una vera e propria centrale operativa dove si può creare relazione, dove si crea comunità, ed è un tassello importantissimo nel tessuto urbano. Probabilmente sentirete anche dalla confusione che mi circonda quale bella giornata. E qui mi dispiace che in radio non possiate vedere tutte le belle facce, le belle persone che sono qui alle mie spalle. E Francesca, come presenterò più tardi, mi sta comunicando che su Instagram c'è una diretta. Ah, perfetto, ok, quindi siamo anche in video e potete vederlo su Instagram, sul profilo di stranieriincampania.it, troverete tutte le informazioni. Qui al centro Rochia, dicevo, è un vero e proprio quartier generale. Ci sono diverse attività che vengono svolte qui, dal teatro ai corsi di italiano, una redazione giornalistica. Oggi l'occasione per incontrarci è la presentazione di Mia, e saluto Giordana Curati. Ciao a tutti. Giordana fa parte di CD Solus, che è uno dei quattro partner che hanno dato vita al progetto Mia. E saluto appunto e chiedo come prima battuta per cosa sta l'acronimo Mia e in cosa consiste il progetto. Allora, intanto mi corre l'obbligo di dire il partenariato, che naturalmente è composto da quattro enti. C'è Le Cassandre, un'associazione di promozione sociale che fa da anni lotta contro la violenza sulle donne, è un centro antiviolenza ed è capofila. Poi ci siamo noi, CD Sonlus, poi c'è il Dipartimento degli Studi Umanistici della Facoltà dell'Università Federico II, e poi c'è PMI Consulting, che avrà, diciamo, un ruolo anche rispetto all'aspetto produttivo, diciamo, di formazione al lavoro per le donne. Il progetto, diciamo, parte da un'idea molto, molto semplice, probabilmente per una serie di per una popolazione femminile, che è quella delle rifugiate e delle richiedenti asilo, che ha subito tantissime violenze e già nel proprio paese e durante il tragitto, probabilmente per queste donne l'accoglienza semplice e standard forse non è sufficiente, e bisogna utilizzare degli strumenti differenti per consentire, da un lato, una morbida elaborazione e presa di coscienza delle violenze, del vissuto, diciamo, che hanno alle spalle, e considerare quindi questo momento di elaborazione anche un punto di partenza per riscoprire invece se stesse, le proprie risorse, i propri strumenti, e affermarsi in maniera più decisa in una fase già molto difficile e complicata per loro, che è quella dell'integrazione in terra straniera. Certo, sì, sono vissuti che riuscite a trasformare quindi in un'occasione di emancipazione, riscoperta e autonomia per queste donne che vivono in un particolare stato di vulnerabilità. Gli obiettivi sono nobili. Come intendete declinare questo obiettivo? Cosa è previsto per queste persone che verranno qui, a partire, se non sbaglio, dal 6 maggio, quindi da lunedì? E oggi le persone che arriveranno qui al centro Rochia, in via Baum numero 1, che cosa troveranno? Come si svolge la giornata, Giordana? Allora, Allora, oggi è attraverso una festa che abbiamo voluto inaugurare e presentare il progetto alla comunità di donne con cui siamo riusciti ad entrare in contatto, che hanno differenti provenienze, differenti anche storie migratorie. Però li abbiamo volute appunto invitare qui e in un momento, come dire, in un contesto anche informale, tra virgolette, provare a presentare un progetto che non è semplicissimo da spiegare e da raccontare. È un progetto che è fatto di sportelli, sicuramente abbiamo un'accoglienza di counseling, un'accoglienza di una psicologa e un'accoglienza di un'avvocata, che sono sempre a disposizione e su chiamate, su prenotazione possono usufruirne tutte le donne che hanno voglia. E poi ci sono dei laboratori che sono proprio delle attività continuative dei percorsi su diversi temi. È vero, il 6 parte il primo laboratorio, gli sportelli sono già attivi, già abbiamo avuto donne che si sono rivolte ai nostri sportelli. I laboratori invece partono da lunedì e cominceremo con un laboratorio a cui teniamo molto, che si chiama Io sono il mio corpo, che lavorerà appunto sull'aspetto sicuramente dell'informazione medico-scientifica rispetto al funzionamento del corpo della donna, ma che ha anche dei contenuti politici inevitabilmente, perché l'essere consapevoli del proprio corpo, di come funziona, di come è fatto e di riappropriarsi di un corpo che ovviamente nel caso di tantissime donne è un corpo violato, è un corpo abusato, e lo riteniamo un punto di partenza molto, molto importante, quindi con la ginecologa e la psicologa. In seguito poi ci saranno degli altri laboratori sui diritti, quindi spiegare alle donne anche i percorsi storici che a livello planetario sono stati fatti, quindi anche nei loro paesi, nei loro continenti, da parte delle donne che sono ribellate ad una situazione, ad una condizione di inferiorità secolare, millenaria e planetaria, e gli strumenti che hanno anche oggi a disposizione concretamente per difendersi dalla violenza che vivono, diversi tipi di violenza. Teniamo presente che qui abbiamo sicuramente tante donne vittime di tratta, e questa deve essere riconosciuta, la mercificazione del corpo femminile da parte degli uomini deve essere riconosciuta come violenza anche da parte loro. Abbiamo moltissimi casi di mutilazione genitale, abbiamo tanti casi di violenza domestica, in parte ancora in corso per chi ha il marito, il compagno qui, e sono cose che vogliamo condividere con queste donne, non in modo troppo asimmetrico, anche in laboratori che sono anche circolari, appunto, di confronti, di scambio. Vogliamo condividere, noi appunto donne italiane, vogliamo condividere con le donne che sono ospiti del nostro paese e che probabilmente costruiranno un futuro in questo paese, condividere certi elementi che per noi sono fondamentali, che è la tutela, la tutela della donna e la difesa dei diritti dalla violenza, il contrasto alla violenza. Ci auguriamo chiaramente che questo scambio porti migliori risultati per tutti, per queste donne, per il territorio che sta ospitando questa l'iniziativa mia, e facciamo oggi un grande bocca al lupo al progetto che verrà presentato tra poco. E un'ultima domanda, Giordana, chi volesse mettersi in contatto, avere delle informazioni per restare aggiornato sulle attività, i laboratori, gli orari di sportello, come può fare? Allora, tutti i mercoledì è aperto qui lo sportello dell'accoglienza di Mia, qui dalle ore 11:30 fino alle 3, e qui può recuperare il calendario con i laboratori e iscriversi ai laboratori. Poi su Stranieri in Campania, sul nostro sito, ci sono tutte le informazioni. Anche chi vuole raggiungere telefonicamente l'operatrice può farlo prima di venire qui di persona. Allora, io ti ringrazio, Giordana, la lasciamo andare, perché chiaramente è una giornata in cui lei è una delle padrone di casa qui, e quindi la lasciamo ai suoi onori di casa per gli ospiti. Grazie infinite e a presto, buon lavoro. Noi vi lasciamo con un brano musicale che invece è Urlo Negro. È un brano, un urlo rock di liberazione degli anni 70, riletta da Mike Patton con il suo progetto Mondo Cane qualche anno fa, e ci sembra un bel augurio. C'è una parte del testo della canzone dove viene espresso tutto il malessere nei confronti di qualcuno che vuole mettere i piedi in testa ad un'altra persona, si dice non voglio più un padrone per raccogliere il caffè, si esprime tanta rabbia, lo si fa in modo rock, come speriamo possa essere liberatorio per chi ascolta e per chi ha il coraggio e la forza di urlare e lottare. Buon ascolto e a tra poco con Francesca Mavasala di Cidis. Buon ascolto. Sì, allora, siamo ritornati qui, spero che il brano vi sia piaciuto, siamo in compagnia di Francesca Mavasala. Ciao a tutti. E Francesca è qui con noi, siamo riusciti a intercettarla qui nello spazio che accoglierà la presentazione di Mia, di cui ci ha parlato Giordana poco fa, e abbiamo qui Francesca per una domanda. Francesca è coordinatrice e mediatrice per Cidis Onlus e si occupa anche dell'animazione dello spazio web di stranierincampania.it. Avrete notato andando sul sito che, pur chiamandosi il sito stranierincampania.it, campeggia una grossa scritta con un logo molto bello che riporta la scritta di Impact Campania. Ci siamo fatti questa domanda: che cos'è Impact Campania? E abbiamo pensato che Francesca, coordinando le attività dell'intero progetto regionale, può essere la persona giusta per fornirci qualche informazione in più. Sì, grazie a tutti. Sì, Impact sta per sono praticamente dei piani di intervento regionali dedicati all'integrazione dei cittadini dei paesi terzi residenti in Italia, nello specifico nella nostra regione Campania. Impact è un progetto, appunto, come dicevo, finanziato dal Ministero dell'Interno, e la Regione Campania è capofila di questo progetto, che insieme ad 11 partner del terzo settore insomma, Lanci Campania gestisce il progetto e le attività nei territori dove appunto gli enti del terzo settore lavorano, insomma, con i fondi, insomma, con le loro attività. E nello specifico Impact è un grande, diciamo, pentolone dove sono dedicati delle azioni per tutti i livelli. L'azione 1, la primaria, diciamo, è quella dedicata appunto alle scuole e agli alunni stranieri con background migratorio, ma non solo, perché sono attività appunto che intervengono in vari livelli nell'ambito scolastico, supportano i docenti nel loro lavoro, li supportano rispetto all'integrazione degli alunni stranieri, sia di recente arrivo che di arrivo, insomma, precedente, quindi anche ragazzi di seconda generazione e con le famiglie. Ci sono degli interventi, azioni riferite proprio ai docenti, dove ci sono dei supporti sia a livello di mediazione di sistema, dove c'è uno staff all'interno del progetto che supportano i docenti nel costruire delle azioni per favorire appunto l'integrazione e il dialogo appunto tra sia all'interno del gruppo classe che proprio a livello di socializzazione tra alunni stranieri e italiani, napoletani, salernitani, insomma campani. E un supporto proprio nel dialogo tra le famiglie e la scuola per implementare, insomma, una partecipazione attiva da parte delle famiglie che provengono da altri paesi. L'azione 2 invece è un'azione rivolta soprattutto agli operatori dei servizi pubblici. Insieme a Lanci, alcuni partner, tra cui la RADA, LES e CIDIS, si occuperanno, insomma, di costruire un dialogo tra varie istituzioni diverse per costruire proprio una politica di integrazione innovativa e integrante, cercando di implementare anche la riorganizzazione dei servizi pubblici in chiave interculturale, non solo dedicata appunto interculturale, non in senso dedicata direttamente ai cittadini di paesi terzi, ma interculturale perché grazie all'attivazione, alla promozione e di azioni appunto riviste in chiave interculturale, siano anche utili ovviamente alla popolazione insomma campana. Quindi Impact si occupa, prima ancora che di integrazione, di interazione territoriale. Questo è il motivo, anche tu hai citato parte dei partner, scusate il bisticcio di parole, ma sono veramente tanti, dopo li nomineremo chiaramente. E l'idea di fondo è che la presenza di cittadini stranieri e di diversi modi di concepire il tempo libero, la cultura, il lavoro e quello che può offrire il territorio possa essere una ricchezza, un'opportunità di trasformazione, di sviluppo anche del territorio. Forse è anche il senso di Impact, che è così trasversale sia sugli aspetti burocratici, come stavi raccontando, di apparato burocratico, di un approccio interculturale, che su aspetti più culturali nel vero senso della parola, scolastici, educativi. E noi prendiamo una piccola pausa con Magico Mondo dei Camillas, che ascoltiamo qui per intero. Un piccolo frammento verrà utilizzata nelle prossime puntate come sigla di apertura delle nostre trasmissioni. Ci risentiamo qui tra un minuto con Francesca Mavasala di CD Solus. Apro la testa ad un qualunquista e vediamo che cosa rimane. Dentro c'è un'asta, nessuno l'acquista. Descendiamo da questa nave. Apro la testa ad un qualunquista e vediamo che cosa rimane. Dentro c'è un'asta, nessuno l'acquista. Descendiamo da questa nave. Fatta apposta per te. Che nessuno detiene, che nessuno detiene. Proprio dentro di te. che non ti appartiene, ma che non ti appartiene. Apro la testa ad un qualunquista e vediamo che cosa rimane. Dentro c'è un'asta, nessuno l'acquista, descendiamo da questa nave. Apro la testa ad un qualunquista e vediamo che cosa rimane. Dentro c'è un'asta, nessuno l'acquista, descendiamo da questa nave. Ma che non ti appartiene, ma che non ti appartiene. Nessuno detiene. Enzo Carella, Pasquale Panella, sono meglio della girella. Lucio Battisti mette sui dischi, mette sui dischi Lucio Battisti. Eccoci qua, ritornati in diretta dal centro Rochia. Sì, sono un po' distratto perché c'è veramente una confusione bellissima qui oggi. E oltre a Francesca Mavasala ci ha raggiunto anche Sara Cotugno, che era impegnata con il ricco buffet multietnico alle nostre spalle. E stavamo, Francesca ci stava descrivendo le prime due azioni, quelle che hanno che riguardano più l'ambito scolastico e quello con i comuni più burocratico, tutto quello che verrà affrontato in Impact Campania ha una intende avere anche una risonanza comunicativa sul sito stranierincampania.it, sulla pagina Facebook, Instagram, su diversi canali social. La radio da cui stiamo trasmettendo si inserisce in questo piccolo pezzetto, però siamo qui con Sara che ci darà qualche informazione in più nell'intento e negli obiettivi di questa parte di comunicazione, e le passo il microfono. Perfetto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io mi occupo, coordino un po' le attività della comunicazione e in particolare il sito Stranieri in Campania, che esiste già, abbiamo molte persone che ci seguono. Praticamente intende raccontare e dare visibilità ad una regione, Campania sempre più multietnica e ovviamente in continuo cambiamento, perché abbiamo sicuramente in Campania comunità che ormai sono residenti da molti anni, ma anche nuove comunità, seconde generazioni, quindi tutto ciò comunque su un territorio che è molto ricco e molto vivace. Per cui l'idea è raccontare questo, creare uno spazio proprio per raccontare queste storie di persone che hanno scelto di vivere in Campania, di seguire, no, dei percorsi insieme, e quindi diciamo noi vogliamo valorizzare proprio queste storie all'interno del sito, che non è ovviamente soltanto questo, ma che vuole essere anche uno spazio di informazione, di news, di aggiornamenti, anche di approfondimenti, e anche un amplificatore rispetto a iniziative che altri realizzano. Quindi diciamo è un collettore ma anche un amplificatore di notizie, di informazioni. E ne approfitto di questo microfono, di questo bellissimo microfono, per dire a chi ci ascolta che se vuole comunque partecipare proprio alla redazione di Stranieri in Campania può contattarci al numero 081 557 12 18 e così partecipare proprio alle riunioni redazionali per mettere anche in campo proprio nuovi filoni comunicativi. Sì, apro un piccolo spazio pubblicitario della nostra radio. L'intento, sì, è quello di voler raccogliere e raccontare il più possibile quello che avviene sul territorio, e quindi può contattare il sito, può contattare la nostra radio nel caso in cui si volessero contattare noi della radio, del sito, per venire sul luogo a presidiare, a sentire con le nostre orecchie quello che sta succedendo. Perché l'idea ovviamente è essere protagonisti dell'informazione, non solo subire la comunicazione, no, come cittadini, ma proprio creare informazione, creare comunicazione. E infatti magari ve ne parlerà Francesca, l'idea è anche dare degli strumenti proprio, no, per creare comunicazione attraverso dei corsi di giornalismo. Sara, grazie, perché io non ero riuscito a decifrare la scrittura di Francesca, tu invece ci sei riuscito al contrario. Si vede che lavorate tanti anni insieme, perché io avevo letto Corso di fischiettare, quindi ecco, Francesca, chiedo perdono, prego, di cosa si tratta? No, infatti questo progetto prevede anche un'azione rispetto appunto a quello che diceva Sara, dei corsi di giornalismo dedicati proprio ai migranti, scrittori che magari nel loro paese già svolgevano questo lavoro, ma con un aggiornamento delle tecniche, ma anche appunto nel corso vorremmo coinvolgere anche ragazzi di seconda generazione che provengono un po' da tutto il mondo, che vivono nei nostri territori, per anche dare l'opportunità di ascoltare come loro appunto sia subiscono l'informazione, come vogliono appunto, sono un po' ripetitiva rispetto a quello che diceva Sara, però è fondamentale per noi, perché il sito vuole dare voce proprio a questo tipo di persone, perché le informazioni che noi riusciamo a dare sul nostro territorio, del nostro territorio, è per loro, ma avere questa bidirezionalità, fondarla insomma, il sito sulla bidirezionalità, per noi è principale. E colgo l'occasione per un lancio radiofonico bellissimo di Gioia e Rivoluzione, speriamo che sia anche il manifesto della nostra radio di stranieriincampania.it. Con il suono delle dita si combatte una battaglia nelle strade della gente che sta male. La canzone degli Aria la lanciamo adesso per farvela ascoltare, e torniamo poi in diretta per i saluti finali. Sentire suono per te, che non mi vuoi capire, rido per te che non sai sognare. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare, che ci porta sulle strade, della gente che sa amare. E non mi fa un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita, con il suono batte una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare, che ci porta sulle strade, della gente che sa amare. Ecco, allora, spero vi sia piaciuta anche questa. E nella manca un tassello di Impact, quello che si rivolge forse in modo più stretto non all'intera comunità che vive su un territorio fatta di cittadini stranieri e di cittadini autoctoni, ed è quella che si rivolge alle associazioni culturali di cittadini stranieri, giusto Francesca? Sì. È un'azione interamente dedicata al rafforzamento delle competenze sia a livello organizzativo che amministrativo, diciamo così, gestionale, delle associazioni di migranti, sia di nuova nascita, chi insomma vuole mettersi in un'associazione, costruire un'associazione dove promuovere la propria cultura o un'azione insomma che favorisce insomma la propria integrazione all'interno di una comunità dove insomma vive. Infatti ci sarà il prossimo anno insomma si prevede di promuovere una call che la Regione Campania insomma si occuperà insomma di divulgare rispetto proprio alla chiamata, si chiameranno delle associazioni di migranti dove dovranno progettare, diciamo così, un'azione di promozione culturale. E questa call poi vuole insomma essere un tassello che si metterà insieme alla promozione, alla campagna di sensibilizzazione che si chiama Campania in Tour. Ci sarà proprio un camper che andrà nelle 5 province campane ha intenzione di restare nelle piazze e parlare con le persone delle varie città campane e parlare di integrazione, migrazione e appunto dare una corretta, non solo una corretta informazione, perché è quello che insomma tutto il progetto vuole fare, ma proprio promuovere l'interazione e sapere appunto la base di questa campagna è quello della conoscenza, conoscere le diverse culture, i diversi mondi che vivono sia all'interno delle nostre città, all'interno delle nostre case, che fuori dalla nostra città e quindi niente, promuovere insomma il dialogo. No, Impact è, nelle sue fondamenta, nella sua architettura, è sicuramente un grande motore di davvero di sviluppo per il tessuto delle comunità, credo sia in una realtà di grande città come può essere ad esempio Napoli, il territorio urbano di Napoli, che voi sicuramente conoscete meglio di chi vi sta parlando, che magari ha più esperienza in piccoli centri nel Cilento, dove i numeri sono molto ristretti, le occasioni di contatto sono molto diverse da quelle che possono avvenire in una grande città. Ma credo che appunto ha un'architettura molto liquida per potersi adattare a diversi contesti pur avendo gli stessi obiettivi e gli stessi risultati. Certo, passo la parola a Sara. Per quanto riguarda ovviamente i servizi di Impact, c'è proprio una sezione all'interno del sito Stranieri in Campania in cui vengono declinati tutti i servizi di Impact, quindi chi vuole poi vuole approfondire tutti i servizi di Impact può collegarsi al sito e ricevere poi tutte le informazioni. Sì, il sito è una miniera, non so come altro descriverla, così come la pagina Facebook di Stranieri in Campania, dove è sempre molto ricca di informazioni, di eventi su tutto il territorio regionale. Credo appunto che il termine tecnico esatto sia miniera, per cui andate a visitarlo. Noi vogliamo ricordare anche gli altri partner nei saluti finali. Sara, visto che sono tantissimi, a chi si stanno rimpallando il microfono, perché è un'impresa ardua, sicuramente ci scorderemo qualcuno, ma pagheremo pegno, offriremo caffè o un sambiter, non andiamo oltre, ok? Sì, i partner, come dicevo prima, sono diffusi in tutto il territorio e sono Cidis Onlus, che siamo noi, la Rada, Consorzio La Rada, Les Onlus, tra parentesi Onlus, la cooperativa Dedalus, la cooperativa CSC, Terzium Millennium e la cooperativa Per Aspera ad Astra. E credo di aver dimenticato qualcuno. Allora, domanda da $1 milione e finora l'hanno fatto senza neanche leggere sugli appunti, per cui... Allora, mi sono ricordato, LTM Gruppo Laici Terzo Mondo, Cantiere Giovani Cooperativa e Lanci Campania, che si occupa insomma dei rapporti con i comuni. Grandi, perfetto, ok. Io vi ringrazio e credo che sia iniziata anche la presentazione del progetto MIA nell'altra stanza, quindi mi sembra doveroso ringraziare e liberare dai cavi e dall'audio Sara e Francesca, che ringrazio, ci vediamo presto. Vi salutano se non l'avete sentito e noi invece torneremo in trasmissione in diretta l'8 maggio alle 6 da Avellino. Ma vi daremo più altri dettagli più avanti. Vi lasciamo con un brano degli Banda Osiris. Buon ascolto. Poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza. Fratella, circostanza, l'ignoranza è sudditanza. L'uguaglianza è apparenza, bellezza è differenza. Fratella, circostanza, l'ignoranza è danza. Se Carlo prende 2, Roberto prende 3. Quanto ne avrà Sandro, se niente a me? E osi riconoscere gli abusi, la differenza c'è. Differenza c'è. Aguzza, aguzzate la vista. Aguzzala, aguzzala, aguzza la vista. La prima, la settima in mista. Settima, la settima, la settima in mistica. L'insieme è già tanto popolare che uno di due qualche cosa può appare. Il sisi lo mucchietta, io cosa sceglierò? Vero quale è dei tre? Ma vero, lo sapevate che tra tanti uguali c'è chi uguale più di te. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza. Fratellanza è circostanza, l'ignoranza è sudditanza. Rebus, anagrammi, charade, lucchetti. Se scopri d'essere stupido son risate e denti stretti. Poi prendi 4 note, ad esempio re sol do fa. Non per tutti l'anagramma risulta fare soldo. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. La settima, la settimana enigmistica. La settima, la ottima, la nonima e la decima. Risulta già da anni la saggezza popolare che unendo i punti neri qualche cosa può apparire. XY, Z, io che cosa sceglierò? Vero o falso, quale è dei tre? La soluzione è a pagina 46. Ed ora, per gli amanti della Sfinge, un bersaglio già svolto. Uomo, uomo, chiesa, Mario, Dario, arido, rido, rito, tori, orti, forti, fonti, finto, tonti, tinto, notti, stelle, stele, ignoti, militi, mitri, cozze, nozze, cana, rana, nuoto, nuovo, uomo, uomo. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. La settima, la settima, la settima enigmistica. La settima, la ottima, la nonima e la decima. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. La settima, la settima, la settima enigmistica. La settima, la ottima, la nonima e la decima. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranieriincampania.it. RAM vive all'interno di Impact FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.